fare tutta la... Restoradio Convento, per raccontarsi, per raccontare. E buonasera ragazzi, noi siamo in diretta con Ristoradio Convento e sono in compagnia di Marco e Simone. E Simone, che prima mi hanno detto che Marco era il bello della compagnia e quindi tutti lo vedevano cuccare, loro lo guardavano. Era l'unico che trovava donne. Non sono io Marco. Non sei tu Marco. Sei l'unico Marco. Mi sa che sei tu il testimone, giusto? Sì. Allora sei tu. Sei tu. Bravo! Bravissimo. Un applauso a Marco che cucca tutto lui. Tutte lui. È il playboy della compagnia. Magari. Ma qualora io la voglio. Adesso ti sposi, quindi non sei più tu. E l'altro invece cosa fa? Ti guarda anche lui quando cuchi? Più o meno. Lui? Sì. Osti, spero di no, Spero di no, se sarebbe un problema. Io sono curiosa di sapere, stasera qui dentro hai cuccato con qualcuno? Ma magari una ragazza. Ci può stare, dai. Sto parlando di te. Una, non di più. Una, dai, l'importante è una ma buona. Una ma poca ma buona. Si può dire, ma dai. Era carina? Sì, certo. Sì. Vogliono sapere, scusami, ma la cosa è andata 5 minuti, 10 minuti, quanto è durata? No, voi amici. I secondi. Guarda, ti stanno proprio buttando a terra, Però no, capite lui. Non si può andare oltre, non si può. No. No. Ha già le manette. Niente, non si può. Ho già le manette. Ah. Non c'è nessun anello qua. Però non c'è anello. Non c'è. Non c'è. Vabbè, allora si può. Allora stasera puoi, dai. Se poi vai a casa e metti l'anello, allora non puoi più. Esatto. Lui per questo non l'ha messo, ragazzi. È furbo Marco. È vero. Vediamo invece Simone, lui ce l'ha. Simone ce l'ha, perché Simone è venuto con l'idea di non cuccare. E quindi l'ha messo, perché dice io sono sposato e non posso fare nulla. Guarda, guarda come balla Marco. Ma che sposato? Non è sposato? Non è invitato? No. Ancora no. Marco, allora ti devi dare da fare, anche tu stasera qui fuori. Guarda che parte femminile che abbiamo, che ci guardano. C'è la sposa, l'amica della sposa. La sposa non si può toccare. La sposa no. Ma c'è l'amica, quella lì dietro è l'amica, la vedo giovane, quindi mi auguro che sia single. La porno star. Ma speriamo. Come cazzo si chiama? È la sposa quella. La porno star. È l'amica di letto. La porno star. L'amica di letto. Guardali come sono romantici. Gli uomini ti fanno le fusioni. Sono romantici. Oramai non hai più divisioni, maschi, no. Donne, hai tutto dalla tua parte. No. Ma stai scherzando? Ma io non lo so. Ma lui guarda, lui non ho capito perché se le tocca e si diverte. Guarda che quando vai a casa le tocca. Lo sposo si è truccato. Non ne tolgo più, guarda Marco. Arrivo a casa così, mia moglie. Così cuccavi solo lui. Ormai sono diventate parte di lui. Sì, infatti me ne sono accorta. Lui si sta proprio divertendo. Se ne sente sue. Guarda. No. Credevo che di là facesse caldo, ma qua si muore. Si sta ancora di meglio. Va bene, dai, ragazzi, è stato un piacere. Grazie a te. Vi lascio proseguire la serata al meglio. E mi raccomando, Marco, datti una calmata. Pensavo datti da fare. No, non prendertele tutte tu. Lasciale anche qualcuno al tuo amico. Va bene, va bene, sarà fatto. Va bene, grazie, buona serata, ragazzi, ciao.